America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Cominciamo con un record che devo dire ieri ha sollevato alquanto il morale degli americani. Sentiamo. Just missed a big cheer. They did it. Kevin Jorgensen, Tommy Caldwell. They're at the top of the Dawn Wall at El Capitan. Il record di free climbing, devo dire un'avventura alquanto spaventevole di due giovani, Kevin Jorgensen di 30 anni, Tommy Caldwell di 36 anni, pensate, hanno scalato i 1000 metri di Dawn Wall, che è l'ultima sezione del Capitan, che è questa parete rocciosa verticale, una pietra levigata, liscia, totalmente verticale nel Parco Nazionale di Yosemite Park in California, utilizzando solo mani e piedi, c'era soltanto una corda di sicurezza. Ce l'hanno fatta in 19 giorni, erano partiti il 27 dicembre scorso, dunque hanno celebrato la fine dell'anno in montagna. Perché? Beh, perché dormivano appesi per aria in una specie di rete che si portavano dietro e che alla fine della giornata sistemavano e dormivano così, come in una specie di nido appeso per aria di fianco alla parete della montagna. Una notizia sicuramente interessante, divertente, che vi dicevo ha sollevato un po' il morale degli americani, anche perché ieri c'era stata una notizia che aveva preoccupato l'America, anche se poi in qualche modo è stata ridimensionata: la notizia dell'arresto in Ohio di un potenziale terrorista che voleva attaccare il Congresso americano. The FBI announced tonight it is arresting an armed ISIS sympathizer in Ohio who told an informant he was headed to Washington to blow up the U.S. Capitol and kill members of Congress. Ecco, partiamo dai fatti. Christopher Lee Cornell, un giovane di 20 anni, è stato arrestato a Cincinnati. Aveva dei piani per costruire delle bombe tubo, sono degli ordini artigianali, aveva delle armi automatiche che aveva appena comprato ieri per attaccare il Congresso a Washington, parlava con un informatore dell'FBI, ma metteva anche messaggi infuocati sui social media usando un nome di battaglia, Rahil Marus Ubiada. Lo usava come firma su Twitter, dove aveva mostrato immagini, slogan a favore dell'ISIS, il califfato. Questi messaggi sono stati intercettati dall'FBI, sono nati dei sospetti, è partita un'inchiesta, e però è lecito a questo punto farsi una domanda di fondo in americano: setup o real thing, incastro o minaccia reale? Cornell era un lupo solitario, un fanatico, un mitomane, o aveva davvero contatti con i terroristi islamici come è successo in Francia? According to the criminal complaint, he acquired semi-automatic rifles, right, to use two in this. M15 semi-automatic rifles and 600 right. rounds of ammunition that he was going to use in this plot. Ecco, nelle televisioni se ne parla, un dubbio sorge, l'unico vero contatto di Cornell alla fine era una fonte protetta dell'FBI che aveva accettato di seguirlo e assecondarlo nei suoi movimenti per ottenere una riduzione di capi d'accusa su un crimine completamente diverso di cui era stato accusato. C'erano legami diretti, scambi elettronici di notizie, di incontri con esponenti di Al-Qaeda o dell'ISIS? Non sembra. Cornell si era vantato di essere in contatto con gruppi terroristici all'estero, ma aveva deciso di non attendere istruzioni per passare all'azione. I suoi nemici, diceva, erano i parlamentari. Ho visto l'esposto depositato in tribunale, ecco, questo è il virgolettato. Le attività di Cornell mostravano un continuo interesse per creare un estremismo violento in America, per appoggiare organizzazioni terroristiche straniere come l'ISIL, commettendo operazioni di terrorismo negli Stati Uniti. Membri e simpatizzanti di questi gruppi terroristici continueranno quasi certamente ad usare piattaforme di social media per disseminare messaggi estremisti violenti in inglese. Questo recita il verbale. Anche fonti dell'FBI, tuttavia, hanno osservato privatamente, parlando con fonti stampa americane, che i piani di Cornell erano aspirational, erano più teorici che reali. Non vi era mai stata finora una minaccia reale, anche perché la data dell'attacco era stata identificata per la fine, per il dicembre del 2015. E torniamo ai fatti. Nella denuncia depositata ieri, 14 gennaio, alle 14:59 alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti, nel distretto meridionale dell'Ohio, i fatti ci dicono che secondo l'FBI Cornell aveva discusso l'idea di attaccare il Congresso con delle bombe fatte in casa. L'obiettivo era di far esplodere diverse bombe di non particolare violenza per poi sparare sui deputati e sull'altro personale in fuga. Il piano d'attacco era per il dicembre appunto del 2015, ma Cornell aveva già preparato buona parte di questa sua operazione. Proprio ieri, appunto il 14 gennaio, ha acquistato due M15 semiautomatici, 600 cartucce, per essere già pronto per la seconda parte del piano. È stato in quel momento che l'FBI è passata all'azione e lo ha arrestato. Dopo aver parlato con esperti in materia, devo dire, sono arrivato alla conclusione che in effetti Cornell era forse più un mitomane, non per questo meno pericoloso, perché su un'arma automatica in mano sappiamo che danno può fare, ma vi dicevo, era più un mitomane che non una cellula inserita in un'organizzazione terroristica. Un profilo molto diverso rispetto a quello dei fratelli Saeed, Sharif Kouach, i terroristi che hanno attaccato Charlie Hebdo. America 24. I terroristi francesi sono stati nello Yemen, quasi sicuramente, possono davvero aver incontrato nel 2011, poco prima che fosse ucciso dai servizi americani, Anwar al-Awlaki, nato in America, di origine yemenite. Awlaki era nemico pubblico numero uno per l'America. Si era trasferito nello Yemen, era responsabile del reclutamento, dell'ideazione degli attacchi terroristici. Ecco, c'è stato ieri un video diramato da Al-Qaeda che conferma il collegamento e che quindi, come dire, dà un peso molto diverso a quello che è successo in Francia rispetto a questo arresto di ieri in America. Ecco, sentiamo il video. Chi parla è Nasra Ali bin Alansi, uno degli esponenti di punta di Al-Qaeda nella penisola arabica, nello Yemen, e dice: ho scelto l'obiettivo, elaborato il piano, finanziato l'operazione, chiedo ad Allah di accettarli, riferendosi ai fratelli Kouach, fra i suoi martiri. Sono due eroi dell'Islam che hanno ucciso vignettisti che insultavano Allah. Ecco, questo è il video, inquietante naturalmente, perché ci conferma che c'è un'escalation nella lotta, come vi dico ormai da qualche giorno, fra ISIL e fra Al-Qaeda, ma che ci riporta anche a una questione di cui si è parlato molto negli ultimi giorni. Obama ha fatto male a non andare alla marcia di solidarietà nei confronti di questi poveretti uccisi o no? Bene, si è parlato molto di questo, i giornali americani non hanno molto discusso, in Europa se ne è parlato molto di più che da noi qui in America. Ho parlato con fonti informate a Washington, mi dicono che secondo loro invece il presidente ha fatto benissimo a non andare a Parigi per varie ragioni. La prima, di sicurezza naturalmente, anche se la questione della sicurezza avrebbe giocato un ruolo minore se non ci fossero state le altre ragioni, quelle diciamo più politiche ed etiche. Per esempio, gli estremisti di Boko Haram hanno ucciso, anzi massacrato un paio di giorni fa, 2000 civili a Baga, un villaggio nigeriano. In Pakistan, terroristi talebani hanno massacrato un centinaio di bambini in una scuola, lo ricorderete, un paio di settimane fa. Ecco, l'America avrebbe inviato un messaggio pericoloso per gli equilibri globali, a cui invece deve molto prestare attenzione. Come dire, i 12 morti di Parigi erano forse più importanti dei 2000 morti in un villaggio sperduto in Nigeria. C'era anche l'aspetto della marcia, un tipo di manifestazione che avrebbe voluto, come dire, esporre Obama a critiche interne per la sua radice etnica di afroamericana. Queste le ragioni che ci dicono, se vogliamo, quanto diverse siano le culture sulle due sponde dell'Atlantico. E forse Obama aveva anche alcune di queste sue ragioni, ma io credo che almeno il segretario di Stato John Kerry poteva mandarlo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, torniamo a questa grande scalata liberatoria. C'è una canzone dedicata proprio ai Free Climbers di Dan Wilson, una canzone con cui celebriamo questo successo di ieri di questi due giovani americani che hanno toccato letteralmente il cielo con un dito. Free Life di Dan Wilson. Let's take a little trip down where we used to go. It's way beyond the strip, a place they call your soul. We'll sit down for a while and let the evening roll. Don't worry about the time, we'll find a place to stay. The people around us seem familiar in some way. Look kinda like we did before it got so cold. And in the air the questions hang, will we get to do something? Who we gonna end up? how we gonna end up feeling? What you gonna spend your free life on? Free life. Let's fall in love again with music as our guide. We'll raise our ready hands and let go for the ride down into unknown lands where lovers needn't hide. We got these lives for free. We don't know where they've been. We don't know where they'll go when we are through with them. The starlight of the sun, the dark side of the moon. In the air the questions hang. Will we get to do something? Who we gonna end up being? How we gonna end up feeling? What you gonna spend your free life on? Free life. Free life. Free New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.